in primo piano. Lunedì 4 ottobre, eccoci qua, l'apertura dei vari quotidiani è dedicata soprattutto a quello che ha detto ieri Berlusconi sul tema giustizia. C'è da dire che anche il Sole 24 Ore, anche se l'edizione del lunedì apre sul tema giustizia in un altro senso. 10 anni per trovare giustizia, record negativo alle controversie economiche. È una interessante inchiesta, dati svelati in anteprima dal Sole da parte del Ministero della Giustizia sul processo civile, poi li vedremo. E poi, come dire, i vari titoli, inchiesta parlamentare sui PM per il Corriere, i giudici mi vogliono eliminare per Repubblica, per la Stampa Berlusconi commissione d'inchiesta sui magistrati, per il Messaggero Berlusconi contro i PM, l'Unità mette in prima pagina Berlusconi con un titolo emblematico e molto duro, l'Eversore, mentre il Giornale, i PM spiano i telefoni del Giornale. Gli abusi della magistratura, quindi anche qui magistratura in un altro senso. Io però voglio iniziare da un terribile fatto di cronaca nella lettura dei giornali, l'abbiamo sentito anche in CR24, avvenuto in provincia di Modena, a Novi. Ricordate la vicenda di Sana, 18 anni, pakistana, uccisa dal padre perché si era rifiutata di fare un matrimonio combinato, o perché si vestiva all'occidentale, o perché insomma non rispettava le regole della famiglia? Ebbene, il caso è molto simile. Lite sul matrimonio combinato, madre difende la figlia, lapidata, addirittura questo è il titolo sulla Stampa, uccisa di fatto. Cioè, cosa è successo a Novi? Un padre pretendeva che la ragazza, che la figlia, sposasse un connazionale. La giovane si è ribellata, è stata difesa dalla madre, il risultato il padre e il figlio maschio hanno ucciso la madre e ridotto in fin di vita la giovane. Ne parla Franco Giubilei, ne scrive Franco Giubilei sulla Stampa, ma trovate dappertutto questa terribile storia di cronaca. Erano mesi che il padre premeva con le buone e le cattive finché la figlia, ventenne, sposasse un connazionale, un pakistano come tutti loro, immigrati 6 anni fa a Novi di Modena. La ragazza però non voleva saperne, la madre era dalla sua parte, tanto che si sarebbe rivolta ai carabinieri per segnalare le liti in famiglia. Nel pomeriggio di ieri la tensione esplosa nuovamente, sfociata in tragedia dopo uno scontro violentissimo che ha coinvolto anche uno dei fratelli della giovane ribelle. Al culmine dell'ennesimo litigio, l'uomo, 53 anni, prima ha picchiato la moglie a mani nude, poi si è accanito su di lei con un mattone. Begum Jnez, la donna, 46 anni, è morta qualche ora dopo. La figlia invece ha fatto i conti con la furia del fratello, di un anno più giovane, alleato del padre in questa assurda guerra familiare. Il ragazzo l'ha picchiata con una spranga di ferro, riducendola in gravi condizioni. Ci sono ovviamente, come al solito, commenti, interviste di chi studia questi fenomeni. Per esempio, sulla Stampa parla l'onorevole Swad Sbai, deputata di origini marocchine, animatrice dell'associazione Acmid Donna, che segue questi casi e dice: attenzione, è un solo la punta dell'iceberg, prepariamoci a un'immersione di un fenomeno di dimensioni inaspettate. Pensate che in Italia ci sono 123.000 marocchine e solo 7.000 di queste alzano la voce. Le marocchine, come le pakistane, sono le più bellicose, quelle che sono meglio informate delle battaglie per l'emancipazione in corso nei paesi d'origine. Mentre anche Renzo Guolo, che è uno studioso che si occupa questi temi, docente universitario, scrive, a corollario dell'articolo di Repubblica di Cronaca, scrive un commento: dalla vita delle donne il mutamento e la salvezza. Purtroppo, scrive Renzo Guolo, questo è un classico delitto culturale, un delitto che farà dire a molti che vi è una totale incompatibilità tra cultura occidentale e quella di alcuni gruppi etnici e religiosi. In realtà il tragico episodio di Novi di Modena rivela le trasformazioni in corso nelle enclave etniche in Europa, Italia compresa, alle prese con una forte soggettività femminile. Il rifiuto della giovane mette in crisi l'usanza pakistana di allargare attraverso il matrimonio combinato il sistema di relazioni comunitarie ed economiche che la diaspora del paese dei puri mette in pratica anche nel vecchio continente, un sistema che le giovani donne tendono a rifiutare. Insomma, un delitto culturale e non un delitto che deve far pensare a confronti anche e scontri e contrapposizioni religiose, questo per Renzo Guolo su Repubblica. Non sono finito, se ne accorgeranno presto, questo Berlusconi, ieri la chiusura della festa del PDL a Milano. E che cosa? Beh, sicuramente l'affondo nei confronti dei magistrati, questo fanno notare tutti i giornali. Berlusconi, affondo anti-magistrati, anche per il Corriere a pagina 2, ha rilanciato il tema che aveva lanciato, per la verità, in un video rubato da Repubblica.it, questa volta l'ha fatto in maniera ufficiale, ora una commissione d'inchiesta. E poi è tornato a definire il PM di Milano, Fabio De Pasquale, un PM famigerato. Ovviamente c'è stata subito la replica dell'Associazione Nazionale Magistrati, non ci intimidisce. Tra l'altro, a pagina 3 del Corriere, Luigi Ferrarella spiega un po' chi è questo Fabio De Pasquale. Messinese, 53 anni, da 26 in magistratura. Uno che nemmeno coi colleghi ha un carattere facile, con qualcuno ha avuto anche frizioni, con l'allora PM Di Pietro, per esempio, su chi dovesse interrogare un indagato, o con il PM Robledo, sulla strategia nel processo sui fondi neri Mediaset. Di recente si è confrontato in maniera accesa anche con il procuratore capo, Edmondo Bruti Liberati. Però, scrive Ferrarella, è pur sempre il primo a ottenere una condanna definitiva per Craxi nel processo per le tangenti pagati dalla SAI di Salvatore Ligresti, come pure del banchiere di Mani Pulite, Pacini Battaglia, e se a ciò si aggiunge che è il PM dei tre processi Mills, Mediaset, Mediatrade, si comprende bene perché gli tocchi lo scomodo ruolo ormai di abbonato agli strali di Berlusconi. Berlusconi che, per esempio, un paio di giorni fa ha rilanciato, scrive Ferrarella, a 17 anni dalla morte a San Vittore del presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, Berlusconi ha riproposto la tesi che ne addebita al PM De Pasquale il suicidio, come reazione a una promessa scarcerazione che nell'estate 93 il PM si sarebbe rimangiato prima di partire per le ferie. Tutto già detto, ridetto, giudicato almeno 6 volte. La prima ispezione ministeriale non ravvisò illeciti disciplinari a carico del PM. Il guardasigilli Conso non mosse contestazioni. Nel 94 il procuratore generale della Cassazione non ritenne di promuovere azioni disciplinari. Nel 95 il ministro Mancuso denunciò De Pasquale per abuso d'ufficio e morte come conseguenza di altro reato, ma il tribunale di Brescia archiviò la prima accusa e la seconda. La prima come inesistente, la seconda come non configurabile nel nesso di causa col suicidio. Poi si arrivò anche alla Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo, che non espresse censure, e quando infine il parlamentare Vittorio Sgarbi gridò dagli schermi di Domenica Inn che De Pasquale era un assassino, fu condannato in appello per diffamazione a 2 mesi e 100 milioni di lire di risarcimento al PM. Insomma, questa è un po' la vicenda giudiziaria del legame tra il PM De Pasquale e la morte, il suicidio dell'allora presidente dell'ENI Cagliari, Gabriele Cagliari. Sta di fatto che Berlusconi ieri, con toni veementi, è tornato a attaccare, tanto che nell'articolo di Francesco Verderami del Retroscena è «Non sono finito e se ne accorgeranno presto». Addirittura per Repubblica è talmente evidente che si è trattato di un vero e proprio comizio elettorale, tanto che per Repubblica c'è la vera e propria tempistica di quello che succederà nei prossimi giorni. Francesco Bei scrive: ormai è deciso. In prima pagina di Repubblica: le elezioni saranno a fine gennaio. Questo è un retroscena che parlerebbe di un accordo tra Bossi e Berlusconi per andare a votare a fine gennaio. Non possiamo stare al gioco dei finiani, ed ecco dunque come sarà scandita la prossima agenda elettorale e politica. Bossi non ci sta a galleggiare, a farsi logorare mesi da questo tira e molla, e dunque il timing discusso coi leghisti non prevede elezione a marzo ma a fine gennaio, inizio di febbraio. In questo scenario, alla fine di ottobre ci sarà la crisi di governo. E ricordiamo che ieri, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro Maroni ha detto 3 settimane di tempo per vedere se i finiani saranno leali e se no si stacca la spina. La crisi di governo, secondo Francesco Bei, sarà provocata dai leghisti se necessario. Seguiranno le consultazioni, lo scioglimento a metà novembre delle Camere. Dopo la maggioranza ottenuta al Senato, Berlusconi è infatti certo che Napolitano non riuscirà più a mettere in piedi un governo di transizione per cambiare la legge elettorale. E anche La Stampa dice: a sentire ieri nel retropalco prima dell'intervento di Berlusconi non c'era un solo dirigente del Popolo della Libertà che dicesse guardate che le elezioni sono evitabili, tutti a dire le elezioni sono assolutamente dietro l'angolo. Oggi dovrebbe essere anche un giorno nel quale Berlusconi va al Quirinale con Gianni Letta alle 19, perché sul piatto dovrebbe esserci la nomina del ministro allo sviluppo economico. Sapete, anche nel nostro GR contiamo i giorni, adesso non ricordo, credo 153 siamo arrivati, di interim dopo le dimissioni di Scajola e l'interim di Berlusconi. Ebbene, dovrebbe essere ormai trovato il nome, vale a dire Paolo Romani, attuale vice ministro. Addirittura per il Messaggero Berlusconi ha fatto avere, il Palazzo Chigi ha fatto avere nei giorni scorsi un dossier inviato al Quirinale, il dossier inviato dal vice ministro che fa superare le obiezioni al Colle, perché c'erano delle obiezioni al nome di Paolo Romani in passato da parte del Quirinale. Questo lo fa notare anche l'Unità nell'articolo a pagina 8, l'ultimo sgarbo a Napolitano, Romani allo sviluppo. Napolitano aveva sollevato dubbi, scrive Natalia Lombardo, e aveva chiesto chiarimenti sul possibile conflitto di interessi data la figura di editore di Paolo Romani, e quindi pare che siano state superate queste problematiche, e pare che, uso sempre il condizionale perché per esempio il Corriere lo mette al condizionale, pare che oggi Berlusconi e Gianni Letta saliranno al Quirinale alle 19 per proporre la nomina del ministro Paolo Romani, ministro allo sviluppo economico. Forse oggi dunque avremo un nuovo ministro allo sviluppo economico. Dicevamo che il tema della giustizia, questo è il tema che è stato il motivo, il leitmotiv del comizio ieri di Berlusconi, che ha concluso la festa del PDL. A questo proposito, però, mentre lì si parlava di giustizia, insomma, con i PM che mi vogliono abbattere e toni che abbiamo anche sentito nel GR, il Sole 24 Ore, come annunciato nei titoli, ha un'inchiesta molto interessante sulla giustizia, quella che riguarda tutti i cittadini, sul processo civile, perché per la prima volta il Ministero, dunque sono dati del Ministero, misura i tempi reali dei procedimenti dal Tribunale alla Cassazione. Sono dati che vengono anticipati dal Sole 24 Ore, dunque molto molto interessanti e importanti, perché per la prima volta, tra l'altro, si tratta di un'immagine fedele, cioè non è una proiezione, non sono calcoli, ma sono un monitoraggio effettivo di quanto ci mettono i processi. Ebbene, il risultato è sconfortante. Durata record per esecuzioni e fallimenti. A pagina 3 del Sole 24 Ore, Andrea Maria Candidi approfondisce appunto il titolo di apertura del quotidiano. Il Ministero ha calcolato i tempi effettivi, servono quasi 10 anni per chiudere una lite civile, 9 anni e mezzo dal Tribunale alla Cassazione, qualcosa in meno se in primo grado ci si siede davanti al giudice di pace. Se poi però c'è in palio una bella somma da recuperare, allora i tempi si allungano ancora. Questa è la fotografia scattata dall'ufficio statistica del Ministero della Giustizia, che per la prima volta appunto ha fornito i dati relativi alla durata effettiva delle cause civili. E allora trovate tutto, in base ovviamente la media 10 anni, ma poi se volete vedere tutte le tabelle, non so quanto durano in media le separazioni consensuali, le istanze di fallimento, i divorzi iscritti al rito giudiziale, le separazioni giudiziali, il risarcimento danni, le cause, questo in giudice di pace, in tribunale, in corte d'appello. Ovviamente in base alla materia cambia la durata. Per esempio, scrive Andrea Maria Candidi, quando la lite riguarda questioni più complesse rispetto all'ordinario, l'approdo alla sentenza diventa un'odissea. In tribunale un'esecuzione immobiliare richiede perlomeno 3 anni e 4 mesi, ma al creditore che deve recuperare fondi da un fallimento non basteranno 9 anni. Ovviamente poi al nord va meglio che al sud, quindi c'è anche una diversa distribuzione, tanto che Michele Ainis, con me, che è un costituzionalista, commenta questa inchiesta in prima pagina con un editoriale dal titolo "Tassa occulta sui cittadini e sulle imprese", è un editoriale molto duro a commentare appunto lo sfacelo della giustizia in questo caso. Come detto, la politica si interroga su tante cose, sulla giustizia e anche sulle barzellette. Oh, ieri ce ne sono tre, le voglio riepilogare prima del traffico, che ha detto Berlusconi, anche ieri non si è fatto mancare le battute, le barzellette durante il comizio. Beh, una è questa: la sinistra continua a dire Berlusconi a casa. Mi crea anche un certo imbarazzo e disagio. Ne ho circa 20 di case, non so neanche dove dovrei andare. Oppure le critiche sulle barzellette, ha detto, ma io ne ho più di 2000, ma se le dico Gianni Letta s'arrabbia, ma sono sorrisi, risate, ti puliscono la testa, sono terapeutiche, non può davvero esserci nessuna intenzione cattiva in queste storielle. Sapete che c'è stato il terremoto per una barzelletta di Berlusconi di un anno fa, che è stata fatta vedere dall'Espresso, che si conclude con una bestemmia, con tanto di insomma, rapporti con il Vaticano certamente deteriorati dopo questa barzelletta. E poi su Di Pietro, Antonio Di Pietro ha ottenuto una laurea vera. Da questo ho dedotto che è necessario riformare l'università. La Lega è la nemesi del Cappio, c'è una questione morale anche da noi. È un'intera pagina che la Stampa dedica con Jacopo Iacoboni a pagina 4. Su che cosa? Le ultime vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto qualche iscritto alla Lega. Indagini, un arresto e il segretario del Veneto dice basta ipocrisie, il problema ci tocca. Tra l'altro, singolarmente, anche sul giornale c'è un'intervista al segretario del Veneto. Il segretario del Veneto della Lega è il sindaco di Treviso, Giampaolo Gobbo, che affronta lo stesso tema in un'intervista con Paola Setti. Cioè, qual è il problema? Che diversi amministratori leghisti sono stati negli ultimi tempi arrestati, 3 o 4. Al che a dire, ma cos'è allora la questione legale sulla quale la Lega punta da sempre? È una questione che riguarda anche voi? Siamo a Carrocciopoli e spelleremo gli indagati. Ecco l'intervista di Giampaolo Gobbo, il primo dirigente di un certo peso della Lega, che parla per la prima volta di un problema anche all'interno del proprio partito. Non è detto che il fenomeno sia così esteso. Beh, ma se non è Carrocciopoli questa, Gobbo, certo, episodio più episodio fa la necessità di confrontarsi. Per esempio c'è l'ex assessore di Silea, Cesare Biasin, che affittava un appartamento a prostitute e trans. Questa è la risposta di Gobbo. L'assessore di San Michele al Tagliamento, Davide Codognotto, arrestato per una tangente di 15.000 euro. Si è fatto mettere la mazzetta in macchina e l'ha chiusa dalla finestra dell'ufficio. L'hanno beccato. Edward Ballaman, costretto a dimettersi da governatore del Friuli, no, governatore, da presidente del Consiglio regionale del Friuli, perché usava l'auto blu per andare a trovare i suoceri. Che brutta immagine, risposta di Gobbo. Insomma, c'è la giornalista che snocciola tutti questi casi, dice, guardi, mi pare troppo mettere alla berlina la Lega, dice Gobbo. Va bene alcuni casi, però ce ne sono anche altri di altri partiti. Certo, il problema c'è. Più è grande il numero degli amministratori, più aumenta il rischio che ci sia chi usa i soldi in modo truffaldino. In Veneto abbiamo 130 sindaci, 4 province e 4 e poi tanti consiglieri. Insomma, e poi dice Gobbo, sappiano questi amministratori che noi li scarichiamo e spelleremo chi è sotto inchiesta per gestione truffaldina dei fondi. Insomma, nel dubbio, fora dai bal. Che per tutta Italia vuol dire fuori dalle palle. C'è anche la polemica legata alle parole di Ciarrapico di qualche giorno fa, quando ha fatto accenno a Fini e alla kippah, il copricapo tradizionale ebraico per gli uomini, parlando di tradimento, parole che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane solo ieri sono arrivati a commentare, perché c'erano giorni di festa, finito lo Shabbat, parole che sono state commentate in maniera molto molto dura, E c'è da dire che Ciarrapico si difende solo con il Corriere della Sera, pagina 9, una breve conversazione. Dimettermi? Ma che dimettermi dal Senato? Voglio essere continuamente un senatore del Popolo della Libertà. Mettiamola come ho detto, io continuo nel mio lavoro, rispondo coi fatti, i miei sentimenti a favore del popolo di Israele sono testimoniati dai fatti. Mi onoro, e poi Ciarrapico racconta anche un fatto che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Mi onoro con la mia famiglia di aver ospitato, nascosto, protetto, salvato durante la guerra una nota famiglia ebraica romana. Si trattava della famiglia Werner. Erano padre, madre e una figlia. Li nascondemmo a casa nostra in via Vittoria Colonna in Prati, poco prima di Piazza Cavour. Per la precisione restarono lì da marzo 1944 fino all'ingresso delle truppe americane. Per questo parlo di ignobile speculazione. E non è la prima. Sulla vicenda della kippa torna Ciarrapico a dire: è una faccenda personale tra me e il signor Fini. Io mi onoro di aver indossato a Gerusalemme in tempi molto lontani la kippa al Museo dell'Olocausto. In Senato ho parlato di tradimento di Fini, che prima ostentava il saluto fascista e poi è andato in Israele a definire il fascismo il male assoluto, e per dire tutto questo si è messo la kippa. Ecco, quel riferimento alla kippa era per questa ragione. Mi auguro di aver chiarito il senso. Tutta questa faccenda è alimentata dal signor Fini e dai suoi servetti. Così Ciarrapico, uno che con Fini ormai non parla più da anni. Vabbè, abbandoniamo la politica, anche se di politica anche noi parliamo nel nostro sondaggio, perché parliamo dell'episodio che ha coinvolto l'attentato a Maurizio Belpietro, direttore di Libero, giovedì scorso. Vi chiediamo, secondo voi, se rischia di tornare gli anni di piombo, come qualcuno ha evocato. Dovete votare su radio24.it. Ne parleremo alle 8.30. Voglio andare ancora a due segnalazioni. La prima trovate ovunque, su tutti i giornali: la morte di Walter Nones. Walter Nones, chi era? Era un alpinista, stava scalando il Nanga Parbat. Forse ve lo ricordate, perché due anni fa Walter Nones fu protagonista insieme a Simon Kerrer e Karl Unterkircher, che in quel caso morì, erano in tre. Un'esperienza tragica nel 2008, in fuga verso l'alto sulla parete Rakhiot del Nanga Parbat. Karl Unterkircher rimase ucciso da una valanga e gli altri due se l'erano cavata. Per un miracolo erano stati recuperati da un elicottero dopo un'odissea durata 10 giorni che aveva tenuto il mondo con il fiato sospeso. Ebbene, Walter Nones è tornato su quelle montagne, è tornato sull'Himalaya, e questa volta invece è toccata a lui. Ancora si sa poco della dinamica, ma la moglie ha postato sul suo blog una scritta: non potremo più riabbracciarlo, possiamo solo ricordarlo per il grande uomo speciale che era. Era nato a Cavalese in Trentino 39 anni fa. Oggi Franco Brevini ne scrive sul Corriere a pagina 23, ma trovate un po' ovunque sui giornali. Voglio solo chiudere con una segnalazione: Venezia soffoca nella pubblicità. A pagina 19 della Stampa, con anche un commento di Marco Belpoliti, il doge abitava a Palazzo Coca-Cola, si stigmatizza da parte dei direttori dei maggiori musei al mondo. Che cosa? Queste pubblicità, i teloni giganti sui palazzi. Per esempio c'è una foto di Palazzo Ducale con i teloni che ricoprono Palazzo Ducale, non si vede niente, ci sono teloni di pubblicità e addirittura, appunto, questa provocazione. Dov'è Palazzo Ducale? Palazzo Coca-Cola, ormai è stato ribattezzato così. Con anche Vittorio Sgarbi che dice: hanno ragione, cioè questi teloni pubblicitari sui edifici storicamente, culturalmente storici, culturalmente fondamentali, che trasformano appunto la nostra cultura italiana in una bella in un bel spot pubblicitario. Ci fermiamo per il GR e ci sentiamo subito dopo.